Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:08 minuti parte un'altra puntata di Focus Economia e anche oggi ne racconteremo, sorrido perché ho detto parte, di solito dico inizia, vabbè, è la stessa cosa, non mi criticate in regia, dicevo un'altra giornata economica e finanziaria da raccontare partendo chiaramente dalla borsa. Allora, Milano va peggio di altre borse. Però sono tutte negative, questo per essere obiettivi. Meno 2,5% Milano, che è arrivata a perdere anche il 3% oggi, meno 1,80 Parigi, meno 1,60 Francoforte, meno 1,50 Londra e meno 0,30 in questo momento l'America. Che cosa spaventa? Beh, allora c'è un calo generalizzato dei titoli bancari, nel caso specifico italiano c'è anche uno spread in aumento, adesso ne parleremo. Alcuni osservatori dicono sono movimenti prima delle elezioni, l'incertezza aumenta in Italia. Ne parleremo con chi rappresenta le banche estere presenti in Italia tra pochi minuti, per capire se veramente vi sia questa preoccupazione delle banche estere, se vi siano pressioni delle banche estere, intendo dire anche colossi finanziari. Il caso di BlackRock, il più grande fondo al mondo, oggi uomini di BlackRock sono arrivati in Italia, hanno incontrato i sondaggisti per capire quali sono le proiezioni. Tra l'altro BlackRock amministra una cifra che è pari a 10 volte l'intero valore della borsa italiana, questo per dare le proporzioni di cosa stiamo parlando. Ma non ci sono solo i fondi internazionali o americani, ci sono anche appunto le banche d'affari, le varie dichiarazioni e analisi di questi giorni. Vorremmo capire se ci sia una vera preoccupazione o semplicemente un po' di speculazione preelettorale e dove si indirizzi questa preoccupazione. Visto anche la polemica tutta politica tra Monti e Bersani su quello che avrebbe detto Angela Merkel, la cancelliera tedesca poi ha in parte smentito di aver detto che di essere preoccupata di un eventuale governo guida PD, ma insomma si tira molto per la giacca l'opinione internazionale, della finanza internazionale. Vorremmo capire un po' di più. Per quello che riguarda i titoli, oggi, come già anticipavo, sono negativi tutti bancari, ma il peggiore in questo momento è Mediaset, meno 5,30%, poi la Popolare Emilia Romagna, meno 4,40%, UbiBanca, meno 4,30%, Monte dei Paschi, meno 4%, Mediobanca, meno 3,5%, Unicredit, meno 3,30%, Intesa San Paolo, meno 3,20%, Generali, meno 3,16%, Popolare di Milano, meno 3,20%, negativa anche Telecom Italia, meno 3,30%, e Exor, meno 3,70%. Qui c'è anche una sentenza in appello che conferma la condanna di Gabetti e Grande Stevens sulla vicenda dei Phil. Ne parleremo nelle notizie in breve. Ancora A2A meno 4,20%. Si salva oggi solo Parmalat. Dopo i buoni dati ieri di Danone, continua il progresso anche di Parmalat, più 2,35%. 349-238-6666 per i vostri SMS e poi la pagina di Focus Economia su Facebook, sempre per comunicare con il programma. Rapidamente le notizie in breve. È chiaro che alle 18, cioè nella seconda ora del programma, torneremo sulle tensioni e questo sull'Europa che ci guarda. Bisogna sempre stare molto attenti a citare le opinioni in generale dei leader europei, fermo restando che ogni paese, ci mancherebbe, ha diritto di votarsi il leader che vuole. E su questo non ricordo interferenze italiane nei confronti di elezioni tedesche, visto che poi la Germania a settembre va al voto. Mi viene molto difficile pensare a qualche dichiarazione politica italiana di peso su quello che dovrà essere l'esito delle elezioni in Germania. Ecco, vorremmo lo stesso tipo di rispetto anche dalla Germania. Rapidamente le notizie in breve. Oro in calo, 1560 dollari l'oncia, quindi anche sotto i 1600. Il petrolio anch'esso in calo, 93,42 dollari al barile. La polemica Francia-Stati Uniti. Ieri abbiamo raccontato di questa frase, a mio avviso molto offensiva, dell'imprenditore americano Maurice Taylor, che in una lettera aveva così giustificato il suo dietro front su investimenti prima annunciati in Francia. Aveva detto: ma i lavoratori francesi sono scarsamente produttivi, lavorano 3 ore al giorno, altre 3 le passano a chiacchierare e un'ora poi in pausa pranzo, e quindi non investiremo nella fabbrica Goodyear. Secca replica dei francesi, che quando vengono toccati sull'orgoglio hanno reazioni molto forti, però devo dire che già ieri ricordavamo come gli americani dovrebbero stare attenti prima di dare definizioni così da macchietta, anche perché poi continuava Taylor dicendo: andremo a produrre e investire in quei paesi dove la manodopera costa meno e dove abbiamo maggiore produttività, Cina e India. Tanto ai camionisti e agli agricoltori francesi non interessa sapere se il pneumatico Goodyear è stato prodotto in Francia o in Cina o in India, gli interessa solo sapere, cito testualmente, che abbia un buon prezzo e pagarlo meno. Ho fatto presente ieri che gli Stati Uniti però a casa loro si comportano diversamente, cioè proteggono la loro industria e ancora richiamano le produzioni in America. Vorrei vedere se qualcuno avesse fatto le stesse dichiarazioni sulle imprese americane, cosa sarebbe successo negli Stati Uniti. Per cui attenzione a trattare l'Europa come se fosse un mercato del lavoro da paragonare a Cina e India. Non fate così con l'America. Comunque, la risposta molto piccata del ministro del rilancio economico Arnaud Montebourg, affidata al quotidiano francese Les Echos. Allora, il ministro dice: Titan, guidata appunto la società guidata dall'imprenditore americano Maurice Taylor, è 20 volte più piccola di Michelin e quindi da un impianto francese c'è molto da imparare. Poi continua Montebourg a lodare le politiche dell'amministrazione Obama, visto che questo Maurice Taylor è un repubblicano, che si candidò anche nel 96 alle primarie per le presidenziali, e chiude con un avvertimento. Lei evoca l'intenzione di sfruttare la manodopera di alcuni paesi, appunto il riferimento di questo Taylor al fatto che andranno a produrre in Cina e in India, dove la manodopera costa meno, per inondare i nostri mercati di pneumatici. Sappia che l'Unione Europea si sta organizzando contro il dumping, aggiunge il ministro francese, cioè la produzione sotto costo. Nel frattempo, da parte mia, le assicuro che vigileremo con uno zelo raddoppiato sui vostri pneumatici di importazione affinché siano rispettate tutte le normative in materia sociale, ambientale e tecnica. E per esempio, bambini che lavorano in fabbriche e quant'altro. E insomma, a me è sembrato un autogol pazzesco quello di questo Maurice Taylor. Meglio se stava zitto, pensava ai casi suoi, e appunto è all'America che cerca di riportare le produzioni in patria per non dipendere dalla manifattura cinese al 100%. Nel frattempo, non so se a questo si riferisse Maurice Taylor, in Cina c'è una strategia interessante per i venditori pigri. Corsa all'aperto, in calzoncini a torso nudo. Un'azienda di alimentari di Shandong ha punito una ventina di impiegati del marketing per non aver raggiunto gli obiettivi di vendita nel 2012. La sanzione era concordata con i manager della società e prevedeva 10 km di corsa per i maschi in tenuta da spiaggia, 5 per le femmine, e poi c'era una limousine nera in testa al gruppo che trasportava un manager dell'azienda incaricato di dettare il passo. I commenti dei 20 venditori puniti: all'inizio era così freddo che volevo la pelle d'oca, ma poi la corsa mi ha riscaldato. Tutti hanno confermato comunque l'accordo stretto inizio 2012, non si sono lamentati, sostenendo che questa prova di resistenza li avrebbe aiutati a fare meglio. Ora io dico: ma ci sarà una via di mezzo tra i metodi cinesi, che non voglio nemmeno commentare perché di che cosa stiamo parlando, la corsa a piedi manco nei campi di rieducazione al freddo, e invece i nostri manager della pubblica amministrazione, che come raccontiamo da mesi vengono tutti premiati nelle regioni, tutti raggiungono gli obiettivi al 100%, tutti con il bonus. Ma non voglio farli correre a torso nudo per 10 km, però una via di mezzo tra punire in maniera così obiettivamente incivile e premiare tutti come facciamo noi ci dovrà pure essere, no? Tra Roma e Pechino un punto mediano. Ancora, veniamo all'Europa. L'indice PMI, che misura l'attività economica nei servizi e nel manifatturiero in Europa, è sceso a sorpresa a 47 punti contro il 48 di gennaio. Gli analisti si attendevano un miglioramento a 49 punti. Questo indica sostanzialmente che la frenata in Europa c'è, continua e è anche forse più intensa delle previsioni. Poi i dettagli svelati oggi dalla Banca Centrale Europea, che ha fornito il suo bilancio. Ha chiuso il 2012 con un utile netto di quasi 1 miliardo di euro. Ha guadagnato la Banca Centrale Europea 200 milioni in più rispetto, 250 milioni in più rispetto al 2011. Il surplus è stato di 2 miliardi e 100 milioni, di cui 1 miliardo e 600 messi a riserva a copertura dei rischi. Come mai ha guadagnato di più? I margini netti realizzati dalla BCE sugli interessi raggiungono i 2 miliardi e 290 milioni di euro, 300 milioni in più, scusatemi, rispetto all'anno prima, di cui 1 miliardo e 100 milioni dai titoli di Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo e Italia, acquistati attraverso il programma OMT, quello di acquisto dei titoli di Stato. Cioè ci ha guadagnato la Banca Centrale Europea a acquistare i titoli nostri quando rendevano così tanto. Tra l'altro si è scoperto che l'Italia è stato il paese su cui si è più concentrata l'azione della Banca Centrale Europea, cioè il maggior numero di titoli di Stato comprati dalla BCE sono stati in Italia. 102 miliardi di titoli italiani ha comprato fra il 2011 e il 2012 la Banca Centrale Europea, 102 miliardi contro i 44 miliardi di titoli spagnoli, i 33 di titoli greci, i 22 di titoli portoghesi e i 14 miliardi di titoli irlandesi. Quindi la Banca Centrale Europea, possiamo dire, è corsa in aiuto, mettiamola così, soprattutto dell'Italia, comprando debito italiano per 102 miliardi, ma guadagnandoci anche, come scopriamo oggi, perché i rendimenti erano alti, più alti di adesso. Sì, c'è chi mi scrive che il punto mediano tra Roma e Pechino è Teheran. Vabbè, insomma, non volevo arrivare a tanto. Ma invece andiamo avanti con la Banca Centrale Europea, perché oggi, oltre a scoprire che il maggior acquisto di debito è stato di debito italiano e che ci ha guadagnato, scopriamo anche quanto guadagna il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Guadagna ben più del suo omologo la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve. Questo vale non solo appunto per i nostri politici, evidentemente, ma insomma Ben Bernanke, che amministra la Federal Reserve, quindi la Banca Centrale Americana, guadagna 200.000 euro in meno, 200.000 dollari in meno all'anno rispetto a Mario Draghi. Perché Mario Draghi guadagna 374.000 euro, ossia 493.000 dollari. Bernanke ne guadagna 200.000 di dollari, quindi siamo a 290.000 dollari in meno. Draghi fa anche meglio del governatore della Banca d'Inghilterra, Mervyn King, che guadagna 465.000 dollari, quindi insomma di questi tre è il più pagato. Passiamo all'Italia, oggi ospite del nostro Alessandro Milan, 24 mattino, il ministro uscente del welfare Elsa Fornero è tornata sul tema degli esodati e anche degli attacchi che ha ricevuto. Lei sa che io sono stata molto attaccata. Molto attaccata, sì, ma anche questo fa parte di un atteggiamento diciamo di superficialità, e visto che vogliamo parlarci in maniera schietta posso dire che è una superficialità da cui la stampa non è certo immune. Parliamo dei numeri. Allora, i numeri sono chiari quando noi parliamo di accordi possibilmente collettivi e possibilmente ufficiali. Quelli noi li sapevamo e quelli erano grosso modo i 65.000 che erano entrati. Sì. Ma poi si scopre dopo che ci sono, lei sa, si dice sempre che le imprese, la struttura, l'ossatura dell'economia italiana è fatta di piccole imprese, e ci sono molte piccole imprese dove i lavoratori sono stati incentivati a uscire nell'attesa della pensione, cioè tenga conto. Ma non si poteva avere una previsione che sarebbe potuto succedere, quindi prendere anche, calcolare un'ipotesi di quanti sarebbero potuti essere queste persone in più? Beh, io qui ho già detto molte volte, quando noi abbiamo scritto la norma, non c'era un motivo per noi di prendere un numero più piccolo rispetto a un numero più grande. La stima che mi è stata inizialmente fornita era 50.000, attraverso discussioni siamo arrivati poi a individuare 65, proprio per avere margini. Dopodiché ci si è accorto di questo, che il fenomeno era molto più diffuso. Ma adesso io ribalto il ragionamento. Guardi che se tutti si accordassero per uscire prima, contando sul fatto che le norme non vengono cambiate, questo di fatto bloccherebbe una riforma, anche se fosse necessaria. Sì. Ma lo dico molto tranquillamente, il ministro Fornero, prima di diventare ministro, era spesso nostro ospite perché è una grandissima esperta di riforma previdenziale. Però io, diciamola tutta, sugli esodati il governo ha fatto un casino, cioè, ho capito, non potevamo sapere che piccole, molte migliaia di piccole e medie imprese avessero raggiunto accordi di scivolo aziendale, ho capito, però insomma, prima di mettere in una terra di nessuno decine di migliaia di persone che si sono ritrovate senza più lavoro ma senza l'età per la pensione, ci si poteva anche arrivare. Io in questi casi direi sempre: ok, la stampa è stata superficiale, a parte che è stato uno scontro, il ministro se lo ricorderà, tra lei e il presidente dell'INPS Mastro Pasqua sul numero di esodati, con grossa anche irritazione del ministro, per cui le cifre a noi venivano fornite anche dall'INPS e quindi se c'è stato casino l'ha creato anche l'INPS. Ma detto questo, insomma, veramente uno può dire: scusatemi, c'è stato un errore, dare la colpa alla superficialità della stampa quando parliamo di decine di migliaia di persone che si sono ritrovate in un mezzo al guado, boh. Allora, la corsa ai rimborsi IMU, c'è già un esposto alla procura, voi sapete cosa è successo, le lettere inviate, 9 milioni di lettere inviate dal PDL con il modulo da riempire per gli eventuali rimborsi IMU, in realtà facevano parte della propaganda elettorale. Il problema è che erano fatte così bene, evidentemente erano tratte in inganno più di una persona, perché a Genova ci sono stati diversi casi di pensionati, soprattutto che si sono rivolti ai centri di assistenza dei sindacati per chiedere i moduli. Praticamente la CGIL e CISL e UIL hanno segnalato che pervenivano agli sportelli delle strutture dei centri di assistenza fiscale molti pensionati in cui avevano in mano la lettera in cui il PDL appunto prometteva il rimborso dell'IMU sulla prima casa, dei terreni prefabbricati, ma con un modulo da cui molti sono stati tratti in inganno. Vabbè, la cosa sembra rientrata, poi vedremo, c'è appunto un esposto alla procura, perché chiaro è che un conto è fare campagna e propaganda elettorale, ci mancherebbe, uno può scrivere quello che vuole, altra cosa è ingannare o fare una cosa così simile a un vero modulo di rimborso che trae in inganno le persone, ecco. Dice un ascoltatore: bastava leggere. Sì, bastava leggere, ho capito. Facciamo un esempio che non c'entra nulla con questo. Se io per la campagna elettorale metto in una busta un facsimile di euro, allora se è veramente un facsimile nessuno ci casca, e se ci casca, se è molto simile all'originale rischi di trarre in inganno qualcuno. Non è un caso che infatti siano stati pensionati a Genova a recarsi alle poste dai sindacati, ai centri di assistenza. Alcuni ironizzano, chissà perché è capitato proprio a Genova. A Genova sono attenti a queste cose. Andiamo avanti. Gianluigi Gabetti e Franzo Grande Stevens sono stati condannati a un anno e quattro mesi nel processo d'appello, quindi anche in appello a Torino, per l'equity swap IFIL XOR, l'operazione finanziaria che nel 2005 permise a IFIL di restare azionista di riferimento della Fiat senza lanciare l'OPA obbligatoria, quindi l'offerta pubblica su tutto il titolo di Fiat, a cui sarebbe stata tenuta essendo prima scesa sotto il 30% e poi risalita poco dopo sopra questa soglia. Però se scendi sotto il 30% e vuoi risalire sopra il 30% dovevi lanciare l'OPA e l'offerta pubblica a tutti. Il reato in questione è aggiotaggio informativo. E comunque a Gabetti e Grande Stevens è stata comunque concessa la sospensione, godono della condizionale, però c'è anche la pena accessoria dell'interdizione per un anno dei pubblici uffici, a cui si aggiunge per Grande Stevens l'interdizione dall'esercizio dell'avvocatura. Vi ricordo che Exor controlla il 32% di Fiat Industrial e il 30% di Fiat S.p.A. e il 52% di Exor a sua volta fa capo alla famiglia Agnelli. Monte dei Paschi, poi avremo gli aggiornamenti perché oggi è stato interrogato Baldassarri, l'ex capo dell'area finanza del Monte dei Paschi, interrogato per 3 ore dai PM di Siena, ha ribadito quanto aveva già detto al GIP Maria Alfonso Ferraro, cioè che in banca tutti sapevano dell'operazione di ristrutturazione di Alexandria e del suo collegamento anche con i finanziamenti di Nomura per l'acquisto di BTP. Un'ultima notizia riguarda invece Finmeccanica, perché Augusta Westland, la società del gruppo Finmeccanica che produce gli elicotteri venduti anche al governo indiano, ha confermato che in uno spirito di piena collaborazione sta fornendo al Ministero della Difesa indiano i chiarimenti richiesti e avanzati la settimana scorsa in merito all'acquisto, al contratto per l'acquisto degli elicotteri Augusta Westland 101. Fra poco arriviamo anche ai mercati del voto, ce la faccio a leggere le notizie, ma perché ne abbiamo dal falegname d'oro alla regione Lazio ai... fatemi leggere uno, datemi un Rino Gaetano, perché questa qui è troppo carina, non posso rinunciare. Abbassare tutte più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, di nuovo la regione Lazio. Perché? Perché grazie alla trasparenza adesso possiamo capire come venivano spesi alcuni soldi alla regione Lazio. Volete sapere quanto guadagna l'ebanista del consiglio regionale? L'ebanista è quello, è un falegname, lavora l'ebano, ebanista. 6.600 euro al mese, IVA esclusa, cioè tanto paga la regione Lazio al suo ebanista. Io non ho capito come mai ci sia tutto questo legno dentro la regione Lazio, per un totale di 95.832 euro IVA esclusa all'anno. Praticamente gli ispettori mandati dalla Ragioneria dello Stato sono riusciti a ricostruire questa macedonia di voci di bilancio, perché che hanno scoperto praticamente che i finanziamenti, tutti i compensi, onorari, rimborsi per consulenze, convegni, studi, ricerche, finanziamenti di altre attività sono passati dal 2007, quando valevano 1.350.000 euro, al 2011, quando il costo è stato di 8 milioni di euro. Polverini, da 1.350.000 euro nel 2007 a 8 milioni di euro di consulenze, compensi, onorari, rimborsi per consulenze, convegni, studi, ricerche, 8 volte in più. Cioè nel 2008 scoppia la crisi, la regione Lazio a guida di Renata Polverini cosa fa? Moltiplica per 8 le spese di questo tipo. Ma insomma, l'esborso per le spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione, di biblioteca è triplicato in 5 anni, per cui è arrivato a 35 milioni di euro spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione, contro i 7 milioni di 5 anni prima. È come se la Camera dei Deputati avesse speso per le stesse voci 315 milioni. Stiamo parlando di un costo che vale per ogni consigliere della Regione Lazio 500.000 euro solo di queste spese: bollette, cancelleria, fotocopie, arredamento del Consiglio regionale, 500.000 di euro per ogni consigliere, per un totale di 35 milioni. E poi non vi racconto tutta la storia di un Geppetto che appunto costa 95.800.000 euro l'anno, ma poi ci sono alcune spese legali un po' strane. C'è una parcella di 15.000 euro sarà data all'avvocato di Cassino Massimo Di Sotto, ingaggiato dal Consiglio regionale in ragione della elevata qualificazione professionale e dell'esperienza maturata. Qual era lo scopo dell'avvocato? Difendere il Consiglio regionale in una causa civile intentata dalla società Milano 90 di Sergio Scarpellini. Ora vi dite, beh, no, bene nulla, perché la regione ha già un suo ufficio legale e aveva comunque affidato la pratica a un avvocato interno, Alessandro Steri. Quindi è abbastanza strana questa cosa, anche perché l'immobiliarista è noto per essere proprietario degli stabili affittati alla Camera dei Deputati, dove sono collocati gli uffici degli onorevoli, e mi riferisco a Scarpellini, e aveva citato in giudizio il Consiglio contestando il recesso del contratto d'affitto di un appartamento nel centro di Roma. 600 metri quadri al modico canone, così pagava la Regione, 600 metri quadri di 330.000 euro d'affitto all'anno, tappezzati d'oro devono essere, sì, 600 metri quadri. Il Consiglio regionale aveva preso questo stabile come sede di rappresentanza nel centro di Roma. Ora voi mi dovete spiegare che cosa c'entra avere 600 metri quadri per il Consiglio regionale del Lazio nel centro di Roma, pagando 330.000 euro d'affitto l'anno. Poi da lì parte la causa con Scarpellini, il quale, quando gli tagliano il contratto, fa ricorso e, appunto, per risparmiare, la Regione Lazio si affida, oltre che all'ufficio legale interno, anche dando 15.000 euro di parcella a un avvocato esterno. Risultato: perde la causa in primo grado e la Regione è condannata a pagare quasi 3 milioni di euro a Scarpellini, ossia tutti gli affitti dei prossimi 9 anni. Il primo contratto era di 9 anni, quindi oltre al danno anche la beffa. E ricordo sempre, come ricordavamo per la Regione Lombardia, per la Regione Sicilia, per la Puglia, quando parliamo di queste cose, che nello stesso periodo la Regione Lazio aveva difficoltà a trovare i soldi per pagare gli infermieri, i paramedici e i medici dell'ospedale Santa Lucia, in cui vengono curati bambini, ma non solo, anche adulti, bambini affetti da gravi disfunzioni psicomotorie. Gravi, no? Hanno dovuto scioperare davanti all'ospedale. Ma nel frattempo tutti gli altri soldi, nel frattempo si trovavano 30 milioni in più per spendere, per pagare bollette, fotocopie, cancelleria e resocontazione. Complimenti alla Regione Lazio, anche stavolta un applauso, non glielo leva nessuno. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Scusate, qualcuno mi dice che l'ebanista è uno scultore del legno, non un falegname, però vorrei capire perché si paga un ebanista 100.000 euro l'anno per il Consiglio regionale della Regione Lazio, ossia 6.600 euro al mese. Chiedo scusa per l'ignoranza. Parleremo invece del rapporto Monti-Merkel, delle pressioni che arrivano dall'estero, delle analisi delle banche straniere. Dopo il metodo e la pubblicità, la borsa intanto ha chiuso sui minimi, meno 3,13. Devo dire che sono peggiorate tutte le borse: Parigi meno 2,30, Francoforte meno 1,90. E anche Londra meno 1,60%. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, parliamo delle attese dei mercati, visto che oggi molti hanno commentato, ecco, la borsa italiana è peggiore di altre perché l'incertezza pesa. Insomma, c'è un mondo della finanza che ci sta guardando e molte di questi commenti li abbiamo raccolti in questi giorni e anche commentati. In realtà poi, però, a mio avviso il tema non è l'attesa per le elezioni italiane, che ci sarà sicuramente, ma è diciamo, quale tipo e come si sviluppa questa attesa. Eh sì, parliamo di quello che si attendono gli investitori esteri, la finanza estera dalle elezioni italiane. È un tema che viene molto tirato per la giacca, lo dico subito, perché chiaramente in campagna elettorale, se c'è una dichiarazione in un senso, ogni partito la vuole portare a casa, se va contro quel partito viene respinta con forza. Questo al di là della polemica su quello che avrebbe detto Monti, o meglio su quello che avrebbe detto Angela Merkel, perché oggi il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha detto: non c'è nessuna interferenza nella campagna elettorale italiana da parte della Germania. Ha però sottolineato Schäuble che col premier Mario Monti l'Italia ha fatto passi in avanti. La polemica, come avete letto, riguarda anche le dichiarazioni di Monti, che ha detto la Merkel è preoccupata da un'eventuale vittoria di Bersani. Poi il portavoce della Merkel ha smentito, c'è stata anche una correzione dello stesso Monti su questo. Ma al di là delle dichiarazioni di carattere prettamente politico, oggi sempre il cancelliere Angela Merkel ha detto che i paesi colpiti dalla crisi devono fare ulteriori riforme: Spagna, Grecia, Italia e Portogallo. Vabbè. Però al di là di questo, mentre 10.000 persone hanno manifestato contro l'austerità a Bruxelles, ci sono state in questi giorni varie analisi, diciamo, chiamiamole così, delle banche. Standard & Poor's, l'agenzia di rating, ieri infatti ha detto: riteniamo che esista il rischio che dopo le elezioni possa esserci una perdita di slancio sulle importanti riforme strutturali per migliorare le prospettive di crescita italiana. Il voto incerto pone dei rischi sulle riforme sulla crescita. E poi Credit Suisse, tre giorni fa, che ha detto in un report: ci sono tre fattori di incertezza, il progresso del gruppo di centrodestra di Berlusconi nei sondaggi, il voto di protesta in crescita nelle ultime settimane e il rischio che il governo PD centristi non abbia abbastanza seggi per una maggioranza solida e che la coalizione non sia abbastanza stabile. Ma anche Mediobanca Securities, che non è straniera ma opera da Londra, come analisi. Ricorderete, sempre tre giorni fa, lo scenario più probabile è quello di nuove elezioni nel medio termine. Poi c'è anche tutta la dietrologia che si è creata sul fondo americano BlackRock, che è il più grande fondo al mondo, gestisce praticamente 3.800 miliardi di dollari, cioè gestisce un ammontare che è 10 volte il valore di tutta la borsa italiana. È chiaro che quando tu parli di un fondo del genere, è un BlackRock pesante, quando si muove, quando fa analisi e quando decide di investire in un certo modo. Tra l'altro, da oggi sono in Italia gli investitori di BlackRock e sono andati anche dai sondaggisti a capire come buttano le previsioni su queste elezioni. C'è chi dice: BlackRock è pronta a speculare di nuovo sull'euro, sulla tenuta dell'euro, sul debito italiano. Ma al di là di le varie analisi dietrologiche, c'è obiettivamente una certa tensione sul fronte finanziario, e oggi lo vediamo, poi ne parleremo anche più diffusamente, molto bene in borsa. Ecco perché ringrazio per averci raggiunto in studio il presidente delle banche, dell'associazione che riunisce le banche estere in Italia, Guido Rosa. Sono 39 gruppi finanziari stranieri presenti in Italia, da BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse appunto, ING, Royal Bank of Scotland, Barclays e quant'altro. Buonasera Rosa. Buonasera a voi. Sono in realtà 102 le banche estere che operano in Italia. Allora, io so benissimo che né glielo farei mai fare, ma né le vuole fare nessun endorsement, come si chiama in gergo. Quindi non stiamo ragionando di quale partito sia meglio, e ci mancherebbe, non è assolutamente nell'etica e nell'ottica di questo programma. Però, vista anche la giornata di borsa, visto lo spread che si avvicina a 300 punti, io vorrei capire in primo luogo una cosa. Qui c'è speculazione a breve, cioè ci sono le elezioni in Italia, andiamo un po' a speculare, perché visto che l'esito non è così certo, ci si può fare qualche guadagno, mordi e fuggi, che in maniera non naif ci può anche stare. Spesso prima delle elezioni vediamo un po' di speculazione sulla politica. Oppure c'è un ragionamento più strutturale, più di medio termine sul nostro paese? Credo ci sia un po' di entrambe le cose. È chiaro che un po' di speculazione ci può essere. Tenete comunque presente che qui è una speculazione, una parte della quale è indecifrabile e indefinita, perché non si sa cosa è veramente l'esito delle elezioni. Quindi speculare significa un po' rischiare. Quindi credo che questa non sia una parte consistente, perché nessuno rischia così alla cieca semplicemente su dei sondaggi. Nessuno, comunque una parte molto limitata. L'altra parte invece, che è quella della situazione più strutturale, questa è molto più seria. Da un certo punto di vista, lei menzionava la giornata di oggi, è vero, ma la giornata di oggi è negativa un po' per tutto, per tutte le borse europee, per tutte le cose. Non c'è dubbio però che c'è una preoccupazione da parte della finanza internazionale nei confronti dell'Italia. Tenete presente naturalmente che le banche in quanto tale fanno finanza. Ora, per la finanza il name of the game, come dicono gli americani, cioè la cosa più importante è di avere solvibilità da parte del debitore o comunque dalla parte di chi lavora con le banche. Solvibilità. La solvibilità dell'Italia è stata in qualche modo assicurata dalle misure finanziarie che sono state prese dal governo Monti, quindi in un certo qual anche modo, da Mario Draghi, per quello certamente, che riguarda l'Europa. Certamente, certamente. Nessuno, Mario Draghi è stato un fattore fondamentale. Cappello di fronte a Mario Draghi, alla capacità che ha avuto di vedere le cose e di porsi ben al di là del... E anche di bloccare una certa ottusità tedesca, aggiungo io, ma noi ragioniamo sul tema, non volevo interromperle. No, quindi in realtà è molto importante che il Paese continui nella politica di solidità di bilancio che è stata intrapresa. Questo è quello che si augurano naturalmente il mondo della finanza e le banche in generale, appunto perché solo attraverso quella politica il Paese continua e continuerà ad essere solvibile, cosa che invece non era considerato tale in novembre del 2011, quando è arrivato Monti. Allora, dottor Rosa, lei che è presidente delle banche, dell'Associazione delle Banche Straniere in Italia, fa parte anche dell'ABI. Quest'idea che circola, che la finanza internazionale, lasciamo stare il Bilderberg, faccia pressioni e cerchi di usare tutti i mezzi per indirizzare l'esito politico di queste elezioni, quindi che l'Italia non sia un paese totalmente libero dal punto di vista democratico, la convince? Ma guardi, io sono un po' meno deciso in questa analisi, questa è la mia opinione, soprattutto naturalmente per quanto riguarda le banche internazionali. Non credo che ci sia pressione specifiche da parte di una banca, di un grande fondo di investimento come per esempio BlackRock, perché il governo prenda certe decisioni. In realtà poi dobbiamo ben capire che il mondo della finanza è un mondo che funziona sulle opportunità. Quindi il problema fondamentale per la finanza è quello di avere un governo che emani delle leggi, delle normative, naturalmente che riguardano il mondo della finanza, che siano certe e durature nel tempo. Ecco, in questo senso le banche possono fare pressione, ma non credo che ci siano banche, non credo, che fanno pressione specifica su un certo gruppo o su un altro per ottenere favori o piaceri in un caso o nell'altro. No, non parlavo di favori o piaceri, ma di indirizzare il più possibile l'esito del voto. Ma io anche questo credo che non sia proprio così. Vede, la questione fondamentale dell'indirizzare il voto è di indirizzarlo in una direzione che in qualche modo crea delle opportunità maggiori di lavoro per le banche. Questo è il ragionamento. Allora, in Italia naturalmente indirizzare significa fare pressione perché il governo, in questo senso sì, ha ragione, prenda una serie di misure, di riforme strutturali, qualunque sia il governo, di destra o di sinistra o di centro. La finanza non parteggia per destra o per sinistra, parteggia per un governo che faccia delle regole certe, e questo sì, lei ha ragione, assicuri la solvibilità e assicuri uno sviluppo del paese, quindi un governo che sia in grado di fare riforme fondamentali per la crescita dell'economia italiana. Me ne dice un paio? Certamente, gliele dico subito. La prima, guardi, proprio abbiamo fatto un po' di analisi e riflessione, la prima è la riforma della burocrazia. La metto anche prima del solito problema fiscale, dell'eccesso di tasse. La riforma della burocrazia. Questo è un paese che sta morendo di burocrazia. Nulla è possibile, nessuna iniziativa industriale, nessuna novità è possibile per via della democrazia. Della burocrazia. Primo. Secondo, la giustizia. La giustizia, naturalmente, per quanto mi riguarda, la giustizia civile, ma poi certo, è anche la giustizia penale. Ormai lo sa tutto il mondo, nessuno viene più in Italia a investire una lira, perché tutto il mondo sa che una procedura concorsuale in Francia dura 2 anni, in Italia dura 8 o 10 anni. Non esiste un contratto internazionale, non esiste al mondo un contratto internazionale che abbia come foro competente Milano o l'Italia. Quindi da questo punto di vista... Cioè tutti vanno su altri fori perché sanno che il foro, cioè il tribunale, diciamo, italiano... a dei tempi inaccettabili. Inaccettabile, e poi comunque non è solo inaccettabile, è molto aleatorio, ci sono X livelli di ricorso, non è certo, è tutta una situazione di certezza che naturalmente... Quindi dice, a partire dalla burocrazia e della giustizia, oltre che immagino il controllo dei conti pubblici, riforme che rendano più attrattivo questo paese e quindi garantiscano gli investimenti del mondo finanziario, nel caso specifico le banche, fatti in questo paese. Assolutamente, anche perché io penso che l'unico modo di difendere veramente, cioè di risolvere a fondo il problema del debito pubblico italiano, sì certo si possono vendere asset, è la crescita. Deve spiegarlo ai suoi associati tedeschi, perché invece i tedeschi battono molto il pugno sui tagli, sulla riduzione del debito, di crescita, dicono la crescita arriverà sì, quando farete le riforme. Mi permetta, questo, ci sono due aspetti fondamentali della crescita. La prima naturalmente che ci sia una politica consenziente dell'Europa, su questo siamo assolutamente d'accordo. Ma la seconda, dobbiamo fare noi i compiti a casa, perché senza quelle riforme alle quali accennavo prima, ci possono essere tutte le più grandi aperture da parte dell'Europa in termini di crescita, ma noi non cresceremo. Noi non cresceremo se in Italia ci si impiega 6 anni dal momento in cui ad aprire uno stabilimento alimentare, e negli Stati Uniti ci si piega 1 anno. Non ne verremo mai fuori, anche se l'Europa ci consente crescita, deficit eccetera, se non risolviamo questi problemi strutturali di fondo di funzionamento del nostro paese. Sì, tra l'altro riforme a costo zero che i vari governi non hanno fatto. Monti ha avuto meno tempo, poi le aveva promesse, Berlusconi nemmeno, cioè nessuno ha il coraggio di attaccare la burocrazia, gli interessi elettorali evidentemente sono più forti degli interessi economici del paese. Però Guido Rosa, resti con noi, perché io non sono del tutto convinto della risposta che mi ha dato sulle banche straniere che vogliono stabilità. Penso che ci sia un po' di più in giro, a giudicare anche dei rapporti che leggiamo. Resti con noi perché invece le borse oggi hanno reagito male, non solo alle elezioni italiane, anche se Milano è la peggiore, meno 3,13%, mentre Parigi perde il 2,30%, Francoforte l'1,80%, Londra l'1,60%. Spread in rialzo vicino ai 300 punti, Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, qui c'è un punto percentuale quasi che Milano prende in più sull'attesa delle elezioni, l'incertezza, ne parlavamo adesso con Guido Rosa, ma c'è anche qualcos'altro, arriva dall'America, dalla Federal Reserve. Sì, esattamente, a livello generale il timore principale arriva proprio dalle dichiarazioni di ieri, cioè che sono i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, in cui si annunciano cambiamenti nella politica di quantitative easing, cioè il sostegno all'economia, di politica monetaria accomodante non attraverso i tassi ma attraverso altre misure, cioè l'acquisto di bond e di asset proprio da parte della Federal Reserve in marzo. Quindi si annunciano cambiamenti e sul mercato si inizia a temere appunto una diminuzione di questi sostegni all'economia e una sua possibile fine a fine 2013. Quindi questi timori hanno penalizzato tutte le borse continentali. Come dicevi tu, Milano è stata la peggiore proprio perché a questo si aggiunge l'incertezza politica in vista delle elezioni del weekend. :18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa e poi tornare sul tema di quello delle eventuali pressioni, scommesse, preoccupazioni della finanza, delle banche. Poi citeremo anche un articolo appena pubblicato nella versione internet del Wall Street Journal. Comunque, Paolo Paronetto, al di là del ragionamento che si faceva su borse tutte deboli in Europa, più debole Milano perché c'è anche l'incertezza elettorale, le banche vanno male perché lo spread italiano è tornato a salire oggi, anche se sotto i 300 punti. Sì, esattamente, comunque da 277 ieri e oggi oltre 290, quindi comunque in un clima generalmente negativo per l'incertezza generale, le banche oggi hanno pagato dazi, sono stato il settore più colpito, anche se non il peggiore in assoluto. Ecco, a Milano. Cito allora in gruppo UbiBanca meno 5,15, Popolare Emilia Romagna meno 4,90, Monte dei Paschi meno 4,30, come Unicredit, Intesa San Paolo meno 4, come Mediobanca, Generali meno 3,86, Popolare di Milano meno 3,5 e ancora tra le banche, mi sembra di averle dette tutte, il Banco Popolare, eccolo qua, meno 2,56%. Il peggior titolo però è stato Mediaset, meno 5,70%. Sì, in questo caso diciamo che anche questo pesa l'incertezza elettorale e quale sarà il destino possibile anche dell'azionariato se dovesse vincere la coalizione di centrosinistra, che ha più volte detto che una legge sul conflitto di interessi sarebbe tra i primi provvedimenti a dover essere adottati. Da segnalare tuttavia che su Mediaset sono in particolare presi di beneficio, perché il titolo aveva guadagnato molto terreno nelle ultime settimane proprio grazie al recupero elettorale di Silvio Berlusconi, che secondo gli ultimi sondaggi prima dello stop aveva recuperato terreno rispetto a quanto, certo, a quanto era all'inizio della campagna elettorale. Il titolo in particolare, dai minimi toccati a metà novembre, aveva guadagnato oltre il 50%, quindi dei realizzi sono inevitabili a questo punto. Bene invece Parmalat, più 2,24% anche oggi in attesa dei conti. Ieri c'era l'effetto Danone, oggi? Oggi sul mercato sono iniziate appunto a circolare delle aspettative positive sui conti che saranno approvati tra poco meno di un mese, il 20 marzo. In particolare gli investitori iniziano a scommettere su un maxi dividendo in arrivo anche quest'anno. L'anno scorso c'era stata una cedola molto consistente, soprattutto grazie comunque a proventi straordinari. Quest'anno questi proventi non ci saranno, ma sembra che gli utili del gruppo dovrebbero essere sufficienti a garantire un dividendo cospicuo anche quest'anno. C'è poi chi scommette, come spesso accade, su un possibile delisting in arrivo, anche se sembra che non ci siano piani in tal senso, almeno ufficialmente dal capogruppo della controllante Lactalis non arrivano segnali in questo senso. Allora, migliori e peggiori in assoluto, oggi si è risvegliata Telecom Italia Media, più 7%, il secondo miglior titolo dopo le Gemina Risparmio Non Convertibili, che guadagnano il 13%. Esattamente, Telecom Italia Media, ricordiamo, sotto i riflettori per la vendita di La7, sono avviate trattative in esclusiva tra Telecom Italia e Cairo, quindi il titolo rimane ovviamente molto interessante per gli investitori. Negli giorni scorsi era schizzato l'avvialzo quando è stato risanato l'interesse della Valle. Se non dovesse andare in porto la trattativa con Cairo, naturalmente ci sarebbe una nuova speculazione per possibili nuovi interessamenti, quindi il titolo rimane comunque tra i più gettonati dagli investitori in questa fase. Peggior titolo War IVS Group, meno 27,9, titolo molto sottile, Vivendi meno 6,20 e appunto Media, se ti dicevamo, meno 5,70%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Ne salutare invece, però restando sul tema, il presidente dell'Associazione delle Banche Estere presente in Italia, l'AIBE, Guido Rosa. Io le vorrei chiedere un'ultima cosa, però insomma, sulla politica, adesso leggeremo anche cosa ha scritto il Wall Street Journal online, ma insomma, paradossalmente, ai fondi, gli uomini di BlackRock sono in Italia oggi, parlano con i sondaggisti, vogliono capire, ripeto, un fondo che da solo muove 10 volte tutto il valore della borsa italiana, ma non converrebbe a loro quasi quasi l'instabilità politica? Cioè le grandi speculazioni, le grandi scommesse si fanno quando c'è incertezza, no? Quindi non sarebbe paradossalmente più conveniente per loro una situazione di incertezza, tornare a speculare sull'euro, sulla tenuta dell'Italia? Ma la questione è molto ben posta. Certamente per gli grandi speculatori, chi ha come linea finanziaria quello di fare un po' di gambling, di gioco, la sua situazione è quella. Ma in linea generale, è chiaro che tutti questi, non tutti, molta parte di questi hedge fund lavorano per privati che danno loro delle istruzioni di un certo tipo di comportamento. Quindi probabilmente è più coerente avere una situazione finanziaria più tranquilla, più serena, nella quale i rendimenti sono più bassi, piuttosto che avere una situazione di quel genere. Ma quando lei sente i suoi associati, cioè gli amministratori delegati delle banche straniere presenti in Italia, sono preoccupati o no? Dunque, sono preoccupati, sa perché? Perché l'Italia è un paese straordinariamente attraente per tutto il mondo della finanza mondiale. Sa perché è straordinariamente attraente? Perché l'Italia non solo è l'ottava cosa industriale al mondo, la terza, ma è un'economia estremamente finanziarizzata, grandissimamente finanziarizzata. Sappiamo tutti che le piccole e medie aziende hanno un indebitamento verso il sistema bancario molto elevato, molto di più, cioè il famoso rapporto equity-debito è molto più sfavorevole nelle società italiane che altrove. E poi c'è tutto il debito pubblico, naturalmente. Quindi c'è un mondo della finanza straordinario, che è il lavoro delle banche. E quindi è chiaro che sono preoccupate, perché se questo paese dovesse succedere qualcosa, scomparirebbe o si limiterebbe, insomma succederebbe qualcosa a una fonte invece di attività molto molto importante, che ripeto, per la parte finanziaria è quasi relativamente più importante di altri paesi che magari industrialmente sono più sviluppati. Diciamola tutta, Rosa, di cosa sono preoccupate? instabilità. Instabilità politica. Quindi se si tornasse alle elezioni fra sei mesi sarebbe... Disastro. Disastro? Insomma. Grazie, grazie al presidente dell'Associazione delle Banche Estere in Italia, Guido Rosa. Grazie a voi e buonasera. Ma noi restiamo sul tema anche perché poco fa il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo molto lungo del suo corrispondente da Roma, l'ha pubblicato online, ha detto: Berlino non si intromette ma Roma potrebbe bruciare, un pericolo per l'area euro. Se Monti risultasse umiliato, il voto sarebbe visto come una pericolosa sconfitta per l'intero establishment politico dell'Unione Europea e per l'approccio tedesco alla crisi dell'euro, confermando un asse Merkel-Monti, così il Financial Times. Le elezioni potrebbero essere paradossalmente più disturbanti per il resto d'Europa che per l'Italia stessa, dove tuttavia Monti è ampiamente visto come un punto di riferimento della Germania, non solo per l'austerity tanto odiata dagli italiani. Ma se dopo il voto l'Italia decidesse di aver fatto abbastanza con le riforme del governo Monti, Angela Merkel potrebbe affrontare un terribile dilemma: sostenere un'amministrazione romana che balla la propria musica o lasciare che l'euro deflagri, scelta che pone la cancelliera nel rischio di essere la più grande sconfitta del voto italiano. Quindi il nostro voto andrebbe a impattare direttamente su Angela Merkel. Io vorrei capire quanto peso ha però questa pressione internazionale, viste anche le polemiche oggi Bersani-Monti su quello che avrebbe detto Angela Merkel, poi smentito da Merkel. Lo vorrei fare con, da un lato, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, Guido. Buonasera. E dall'altro con Antonio Politto, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera anche a te, Antonio. Buonasera. Datemi un minuto per il traffico e poi, paradossalmente, vorrei anche capire... In realtà le dichiarazioni ci sono state, i quotidiani, Financial Times, Wall Street Journal, i tedeschi, anche oggi Seibert è tornato a parlare, Schäuble, Monti ha fatto un buon lavoro, però dai mercati non è che abbiamo visto tutte queste tensioni, ci si poteva aspettare uno spread più ballerino, invece tutto sommato oggi è 2,90, ma nei giorni scorsi è più stabile, la borsa oggi è debole. Anzi, Milano è la peggiore, meno 3,13%, ma le altre fanno meno 2,20% come Parigi o meno 1,90% come Francoforte. Cioè, non è che siano arrivate tutte queste tensioni finanziarie. Vorrei capire se quindi il problema è più finanziario, secondo voi, di tenuta e stabilità economica del paese, o politico, perché insomma anche Angela Merkel, per esempio, fa i suoi conti, visto che ha già un socialista come Hollande contro, lei che appoggiò Sarkozy. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte. Allora, Guido Gentili prima e poi Antonio facciamo Antonio Polito prima e poi Guido Gentili. Antonio, tensioni sui mercati, visto che poi l'esito è tutt'altro che scontato, così forti non ne abbiamo viste, lo dico molto obiettivamente. Sì, lo spread si è un po' mosso, la borsa però ha seguito anche le altre. È più un problema politico di equilibri europei o c'è un vero problema secondo te di incertezza di affidabilità finanziaria ed economica dell'Italia? No, al momento questa inaffidabilità non c'è, nel senso che perché i mercati dovrebbero diciamo così giocare, scommettere in attesa di un risultato che poi tutto sommato è ampiamente previsto in Italia e fuori dall'Italia in termini che sono considerati accettabili, per usare la metafora usata dall'Economist in un suo articolo, cioè un centrosinistra temperato da Monti. Questo è un po' quello che si aspettano un po' tutti nel mondo e che francamente diciamo i dati italiani, le voci italiane sui sondaggi, perché ormai si può parlare solo di voci non sembrano smentire. C'è un problema politico, nel senso che è molto vero quello che leggevi prima al Wall Street Journal, cioè che le elezioni italiane possono avere un impatto quasi più grande sull'euro e sull'Europa che direttamente sull'Italia. Naturalmente poi indirettamente lo avrebbero anche sull'Italia, perché quello che succede all'euro ci riguarda e come, visto anche le dimensioni del nostro debito pubblico in euro, denominato in euro. Ma questo conferma anche una cosa a cui ci dobbiamo abituare, io l'ho scritto mesi fa e penso che andrà sempre di più, cioè ci dobbiamo abituare a campagne elettorali che si svolgono in una sfera pubblica paneuropea, diciamo, non soltanto in casa nostra, e non sono sempre ingerenze. Quando i giornali stranieri giudicano le vicende italiane, fanno un lavoro che noi facciamo sulle vicende tedesche o su quelle francesi. Altrettanto non ci dobbiamo stupire che abbiano delle preferenze i governanti di altri paesi, perché quello che succede in Italia avrà influenza non piccola sui loro progetti politici, soprattutto quelli relativi alla Germania e all'euro. Quindi io trovo che stiamo assistendo forse alla prima elezione politica italiana dopo quella del 1948 che viene giocata anche fuori dall'Italia. E quindi è più il peso degli equilibri politici europei, oltre che sullo sfondo chiaramente il rischio di un nuovo attacco all'euro, che una diretta incertezza e insicurezza da parte degli investitori, che ripeto, al di là dei movimenti di borsa, non abbiamo visto, la borsa si è mossa più sul Monte dei Paschi in queste settimane, abbiate pazienza, che non sull'esito elettorale per quello che riguarda per esempio i titoli bancari. Però vorrei sapere se Guido Gentili è d'accordo con questa analisi, cioè dobbiamo abituarci, dopo quello che è successo dal 2011 in poi, a elezioni sempre più in un agone europeo e non solo italiano. Sono certamente d'accordo, ha ragione Polito su questo. Questa è la prima volta, peraltro, che abbiamo un voto in Italia, il voto, diciamo, del popolo sovrano come da Costituzione, che è in presa diretta con quello che diciamo, è il contesto europeo. Da qui però il rischio di un gigantesco cortocircuito, perché noi ovviamente non possiamo ipotizzare oggi quale sarà l'esito del voto, però è anche possibile immaginare l'affermazione, anzi questo direbbero, diciamo, le voci che riguardano i sondaggi, l'affermazione ad esempio di un movimento come quello di Grillo, l'affermazione comunque la tenuta rispetto a quelle che erano le previsioni del centrodestra, e quindi in un paese che potrebbe presentarsi il 26 di febbraio sui mercati comunque con un ampio ventaglio di forze che sono, diciamo, dal punto di vista dell'Europa, eurocritiche rispetto all'impostazione che è stata fin qui data dalla politica economica europea a sostanziale trazione tedesca. Quindi il rischio c'è, ed è per questo che i nostri partner sono preoccupati della situazione politica. Non dimentichiamo che l'Italia è la terza economia d'Europa, la seconda manifatturiera dell'Europa, ha un debito gigantesco e non più tardi di oggi la Banca Centrale Europea ha comunicato che nel periodo caldo per il nostro spread sono stati acquistati 100,3 miliardi di euro di titoli italiani che assommano, diciamo, sono a più tutti gli acquisti, tutta la somma, sì, certo, di Portogallo, Spagna, Grecia, eccetera. Quindi questo ci dice che quale posta, quanto sia alta la posta in gioco, e quindi questo ci dà la sensazione, veramente l'impressione di quello che può accadere. E infatti tu ricordavi giustamente che oggi la Banca Centrale Europea ha fatto sapere che il più grosso aiuto l'ha dato all'Italia comprando debito italiano tra 2011 e il 2012. Pensate che per paesi messi anche peggio di noi dal punto di vista del debito e dell'andamento anche economico, la Banca Centrale Europea li ha aiutati molto meno, ha comprato infatti solo 44 miliardi di debito spagnolo, 33 di debito greco e 22 di debito portoghese, nonché 14 di debito irlandese. Però vorrei capire un'ultima cosa: il presidente delle banche, dell'associazione delle banche straniere in Italia, Guido Rosa, poco fa ci ha detto per noi il vero disastro sarebbe tornare a elezioni, cioè la prospettiva che gli danno i suoi associati, quindi gli amministratori delegati delle banche estere presenti in Italia, è questa, e cioè l'instabilità politica. Quanto forte è questo rischio? Perché poi, insomma, è questo il punto, cioè balleremo poi per sei mesi, si tornerà a elezioni, o in realtà vi sarà una certa stabilità? Antonio? Ma chi può dirlo? Io considero, diciamo, sostanzialmente basso il rischio di un immediato ritorno alle urne, perché credo che ci sono abbastanza attori politici in circolazione che sanno di dove, che insomma, che hanno idea che bisognerebbe rendere conto all'Europa, che questa cosa sarebbe veramente un rischio molto alto per il paese. Tutto sommato, nel novembre del 2011, cioè poco più di un anno fa, si è dato vita a una maggioranza grande dove i nemici giurati di 15 anni si sono messi insieme per rimpannucciare un po' le cose, quindi io credo che tra PDL, PD, centro, eccetera, eccetera, anche in presenza di risultati molto complicati, si farà in modo da non andare subito alle urne. La verità però è un'altra, che diciamo così, il disastro è il rischio di andare subito alle urne, ma poi c'è il vice disastro, che c'è il rischio di avere una maggioranza e un governo non abbastanza coesi per fare le cose che vanno fatte, e magari anche soggette a una pressione popolare di piazza, di scioperi, di manifestazioni. E una tale pressione che dopo, diciamo, che non consente di fare una legislatura, certo, di riforme, di, cioè, l'incubo del secondo governo Prodi. Guido Gentili, anche su questo Rosa è stato molto chiaro, ha detto insomma i miei associati vedono come un disastro l'ipotesi di andare a elezioni dopo sei mesi, e l'unico vero timore è l'instabilità, cioè che il paese si blocchi perché per i vari interessi contrapposti e quindi non riesca a fare nessuna delle riforme promesse e attese. E certo, questo è il rischio, che si crei una situazione, un quadro politico tale per cui non si riescono a fare le riforme, il paese si blocca di nuovo, magari sull'onda anche di contestazioni popolari forti, e che quindi la macchina governativa e decisionale si fermi, e quindi saremmo costretti a ritornare a fronte di questo prima o poi alle elezioni. Quindi un periodo durissimo sotto il profilo finanziario per quanto riguarda le aspettative dei mercati, nel confronto con i mercati, e quindi dovremmo abituarci probabilmente a degli attacchi, agli attacchi della speculazione, allo spread che di nuovo sale, con tutto quello che abbiamo, certo, già visto in parte il film dell'anno scorso. E di cui non sentiamo certo la mancanza. Certo. Un'ultima domanda al volo, perché ho un minuto e mezzo scarso, ma toglietemi una curiosità, ma evocare e invocare l'appoggio europeo, la Merkel in questo caso, oppure i commissari europei, serve a un politico italiano per le elezioni, o è più un effetto boomerang perché dà l'idea di un paese colonia in cui la amata, si fa per dire, Germania decide più delle dinamiche interne? Antonio? Non serve, fa un effetto boomerang, è pericoloso. Diciamo, gli italiani, la cosa migliore è che gli italiani sappiano che di un certo politico si fidano in Europa, ma non che nessuno glielo dica, perché è irritante. Devo dire, se riferimento a Monti, che la risposta di Monti non era per accreditare se stesso come inviato della Merkel, ma era piuttosto per negare che ci fosse un accordo con la Merkel per fare un governo dopo le elezioni col PD. Comunque la mia risposta è che la gente si irrita. Guido? Assolutamente d'accordo, è un errore, è un boomerang, e diciamo, si crea l'atmosfera sempre verde del confronto Italia-Germania, che facilmente, diciamo, dal campo di calcio va alla politica e viceversa, e quindi secondo me è assolutamente sbagliato. E poi con rievocazioni di pancia autarchiche, chiamiamole così. Grazie Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Focus Economia termina qui, riparte e ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.